654 Biscottini puerperali. Il sesso, che a buon diritto porta il titolo di gentile, non tanto per la gentilezza delle maniere, quanto per quel delicato senso morale che lo rende naturalmente proclive a tutto ciò che può recare un vantaggio o un conforto all'umanità, ha molto contribuito a che l'elenco delle mie ricette riuscisse più copioso e svariato. Una signora di Conegliano mi scrive, quasi meravigliandosi, che non ha trovato nel mio libro la pinza dell'Epifania. E non ridete, i biscottini puerperali, due cose, secondo lei, di non poca importanza. Racconta la detta signora che la sera della vigilia di quella festa in tutte le colline e la pianura della bella Conegliano, i componenti di ogni famiglia di contadini, dopo aver fatto fuochi e grandi baldorie nell'aia del podere e recitate orazioni per invocare dal cielo ubertoso il futuro raccolto, si ritirano in casa tutti felici e contenti, ove li aspetta la pinza sotto il camin annaffiata con del buon vin. Mentre quei buoni contadini mangiano la pinza, che per essere più che ad altri dicevole a quelle genti e a quel clima io non descrivo, secondo i dettami della signora rivolgerò le mie cure ai biscottini puerperali, perché essa li giudica nutrienti e delicati, opportuni a riparare la spossatezza di chi ha dato alla luce un figliuolo. Rossi d'uovo numero 8, zucchero a velo grammi 150, cacao in polvere grammi 40, burro grammi 40, odore di vaniglia mediante zucchero vanigliato. Ponete questi ingredienti in un vaso e con un mestolo lavorateli per oltre un quarto d'ora, poi versate il composto in 4 scatole di carta, lunghe 8 e larghe 6 centimetri circa. Collocate le medesime in una teglia di rame coperta, posatela sopra un fornello con pochissimo fuoco sotto e sopra, onde il composto assodi alquanto senza fare la crosticina, perché si deve prender su a cucchiaini. Quindi è affatto improprio il nome di biscottini.